Italia in controluce. Buongiorno, oggi è il 17 novembre, Italia in controluce, due edizioni, 6.30, 13.30, il programma di Radio 24 sulla cronaca italiana. Buongiorno da Daniele Biacchesi. La puntata di oggi è interamente dedicata alla crisi del Partito Democratico a Milano dopo la vittoria di Giuliano Pisapia, candidato vicino a Nichi Vendola alle recenti primarie. Il racconto di Dario Ceccarelli. Credo che Pisapia sia fra quelli che meritano di vincere. Penso Pisapia. Ma penso anch'io che voterò Pisapia, ma anch'io penso che sarà difficile perché Milano difficilmente cederà lo scettro, per cui la Moratti secondo me vince facile. La fiducia a che punto sta? Al momento odierno a zero, speriamo che. Però siete qui. Certo, perché la speranza. Un terremoto permanente, il risultato delle primarie del Partito Democratico a Milano continua a provocare scosse. La vittoria di Giuliano Pisapia su Stefano Boeri, il candidato sostenuto dal partito, muove una discussione che va ben oltre i confini di Milano. Filippo Penati, longa manus di Bersani, dando le dimissioni si è preso sulle spalle il carico della sconfitta. Un atto dovuto che toglie comunque dall'imbarazzo i vertici milanesi del partito che a botta calda avevano rimesso il loro mandato. Ora il clima è più sereno e i consiglieri del PD in comune hanno rinnovato la fiducia al capogruppo Maiorino. Quanto agli altri segretari bisognerà aspettare che si riuniscano le segreterie provinciali e regionali. Ma due cose sono già chiare. La prima è che il PD, ob torto collo, convoglierà tutte le sue energie su Giuliano Pisapia. La seconda è che la confusione nel cielo del Partito Democratico milanese, ma anche nazionale, è sempre altissima, con il convitato di pietra Vendola che ormai condiziona ogni scelta. Ma noi ci fermiamo qui a Milano, facendo sentire alcune voci della città, partendo dallo scrittore architetto Gianni Biondillo. Ma io non capisco veramente di che cosa ci si debba lamentare. Si sono fatte delle regole, il gioco era questo qui e ha vinto uno dei partecipanti al gioco. Non è che poi dopo, se c'è un gioco più, mi prendo il pallone e me lo porto a casa perché il pallone è mio. È la democrazia, baby. Certo, è la democrazia baby, ma secondo te è stata una buona idea che il PD appoggiasse un candidato in particolare o, come dicono alcuni, era meglio stare alla finestra e vedere comunque come andava? Allora, la cosa un po' surreale di questa tornata, diciamo, elettorale delle primarie è che il candidato ideale doveva essere un po' il sunto dei tre candidati, perché doveva avere l'autorevolezza di uno dei tre, la capacità, come dire, di stare nella politica dell'altro e anche uno sguardo internazionale del terzo. Questo cosa significa? Che la sinistra milanese ha espresso candidati di vaglia, ma tutti in qualche modo mancanti di qualcos'altro. Non so se riesco a spiegarmi. È come se chiunque avesse vinto dei tre perdeva, lasciava le caratteristiche degli altri due. Vuoi dire che erano comunque tre candidati sbagliati? Sbagliati. Punto. Erano tre candidati sbagliati non perché siano tre persone sbagliate, anzi, sono tutte tre persone di ottima, insisto, qualità, levatura, preparazione, eccetera, eccetera. Ma uno magari metteva la pancia e non la testa, l'altro metteva la testa e non la pancia, e così via, insomma, e quindi qualcosa non ha funzionato. Ma anche questa radicalizzazione, in qualche modo, politica per colori, per bandiera, è sbagliata. Cioè, questa idea, ad esempio, non so, che il vincitore, che Pisapia sia il rappresentante della sinistra oltranzista, ma non è vero, non è vero. Il centro di Milano, cioè la parte borghese di Milano, ha votato Pisapia, non ha votato Boeri. Per l'attore e scrittore Monio Vadia il problema è soprattutto la mancanza di chiarezza. C'è stato troppo a lungo in una parte del centro-sinistra l'idea che si possa vincere solo rincorrendo il centro o il moderatismo. Questa idea è stata completamente, ripetutamente, rovinosamente smentita. Ora, Claudio Burlando, lo cito perché mi ha molto colpito quando l'ha detto in occasione dell'anniversario dei fatti di Genova del 1960, sì, quelli del governo Tambroni, sì, ebbe modo di dire questa frase che mi si è scolpita nel cuore: per troppo tempo abbiamo pensato di vincere con le idee degli altri, è ora che torniamo a pensare di vincere con le idee nostre. Non si vince necessariamente al centro, si vince col coraggio e con la chiarezza. Io credo che un elettorato abbia bisogno di capire chi sei, non se sei la fotocopia di qualcun altro in forma carina, perché tanto non funziona. Il centro è già occupato, abbondantemente occupato, E questa rincorsa è diventata francamente un po' anche patetica. Michele Serra, giornalista e scrittore, sottolinea che l'errore non è stato tanto quello di appoggiare Boeri, ma quello di fare un uso maldestro delle primarie, e le dimissioni di Penati sono un atto dovuto. Le dimissioni secondo me sono una specie di ammissione pubblica di un errore, ma l'errore secondo me non è stato appoggiare Boeri, sarebbe stato un errore anche appoggiare Pisapia. L'errore è stato appoggiare un candidato prima che le primarie avessero luogo e svolgessero la loro funzione. Cioè, le primarie sono un meccanismo meraviglioso e maledetto al tempo stesso, cioè, ci devi credere, cioè, se le fai devi usarle come un punto di forza, non come un punto di debolezza. Sarebbero state usate come un punto di forza se il PD si fosse messo a disposizione di quello che vinceva le primarie. Ecco, è un errore quasi incomprensibile. Qualcuno vede la vittoria di Pisapia come così una sconfessione del Partito Democratico, cioè tipo un'operazione vendola. Tu sei d'accordo o no? Sicuramente Vendola in questo momento ha un peso sull'elettorato di centrosinistra e anche sull'elettorato del PD fortissimo, fortissimo. Io credo che Pisapia da solo forse non ce l'avrebbe fatta, e Vendola è stato il valore aggiunto. Io credo che anche sul piano nazionale, ovviamente il PD alle primarie sarà del tutto autorizzato e legittimato a presentare il proprio segretario, e però deve tenersi pronto, cioè il PD deve tenere conto che in questo momento Vendola è assolutamente un vincente. Non per tatticismo, ma proprio per intelligenza politica, il PD dovrebbe prepararsi a gestire con intelligenza questa cosa, cioè a dire: noi ovviamente presentiamo il nostro segretario, ma ci mettiamo fin da ora a disposizione di chiunque dovesse vincere le primarie. Secondo me, molto probabilmente, se ci sono vere primarie del centro-sinistra, le vince Vendola. Per il comico Enrico Bertolino c'è poco da ridere, e il cambio di cavallo non modifica il masochismo congenito del PD. Secondo me le dimissioni in un momento come questo è un atto praticamente dimostrativo, cioè è una sorta di, apparentemente tutti dalla stessa parte, adesso manteniamo e sosteniamo il candidato, però invece, cioè, queste persone prima sostenevano un candidato voluto dal partito che era Boeri, questo candidato non ha avuto il consenso, dietro c'è questo fantasma che aleggia dalla Puglia fino a qua di Vendola, oramai tutto quello che è Vendola potrebbe andare anche al Grande Fratello e batte Saviano, nel senso, cioè, la mia paura è questa qua, ecco, che ci sia una sorta di masochismo congenito nel DNA del PD, che nel momento in cui c'è la possibilità di vincere dico: ma perché? Perché dobbiamo andare a vincere? Che poi dopo ci tocca rigovernare, poi ci tocca rifare le cose, rimettere le buche a posto, il seveso che esonda, cerchiamo di lasciare fare agli altri e poi noi ogni tanto ci facciamo una primaria, almeno qualche elezione ce la vinciamo. Ma i problemi di Milano, al di là degli schieramenti, hanno pesato? Ecco, ci sono varie sinistre a Milano, secondo me, ci sono quelle che si ritrovano nei salotti, quelle che si ritrovano sulle fabbriche, in piedi sulle fabbriche, sui tetti, no? Per anni si è pensato, forse, o per mesi si è pensato che gli operai sulle fabbriche, sui tetti delle fabbriche, stessero aspettando l'eclisse, invece sono là perché probabilmente viene a mancare il lavoro. Ci sono delle aree a Milano che sono totalmente disastrate in questo senso, alcune delle decisioni di grandi aziende internazionali e multinazionali penalizzano anche questa città, e in più c'è questa cosa dell'Expo, che io trovo sia una delle più grandi balle mediatiche che è stata messa in piedi per riuscire a cementare ancora un bel po' di roba, e infatti il candidato che c'era prima, l'architetto, sosteneva che bisognava tirare sul verde verticale per poi lasciare libero lo spazio per le cubature a cemento, e infatti la gente a un certo punto ha detto: quello che a Milano si risponde, ma vada via il QT e il verde verticale. Per Gian Giacomo Schiavi, capocronista del Corriere, questo risultato è comunque un'occasione da non perdere. Il Partito Democratico si è sicuramente fatto del male da solo e ha commesso un fallo da cartellino rosso quando ha scelto di indicare il candidato il giorno prima dell'indicazione del Comitato dei Saggi, e quindi ha messo il timbro su una candidatura che è apparsa a tutti come una candidatura di partito. Pensavo anche a questo proprio mentre scorrevano i dati sul risultato e sulla vittoria di Pisapia. Qualcuno dirà: è un'occasione perduta per Milano. Invece no, Milano ha dato con questo voto delle primarie un'indicazione netta, secondo me. Ha detto no alle logiche di partito e ha detto sì a dei messaggi chiari e coerenti, e ha detto che non accetta imposizioni dall'alto. Ma perché Pisapia ha intercettato più voti? Il fattore vincente di Pisapia è stato questo: lui si è messo in gioco prima degli altri, e ha cercato da solo uno spazio, e una certa Milano gli ha dato fiducia. e forse immagina anche di poter essere il nuovo Ken Livingstone, Ken il Rosso, come è accaduto a Londra. Questo è ancora da vedere. Comunque lui è stato bravo in questa campagna elettorale, sta provando a interpretare una figura, diciamo così, di candidato riformista. Era la seconda edizione di Italia in Conto Luce. Per comunicare con noi, il mio blog www.radio24.it, Biacchessi, Radio 24 Italia in Conto Luce, il gruppo su Facebook, In Conto Luce su Twitter, la mail contoluce@radio24.it. La mia voce e le storie raccontate da Italia in Conto Luce tornano domani alle 6:30 su Radio 24.